Ringrazio Paolo e nulla, cioè, a partire da quello che è il ragionamento, penso valga, ho fatto un piccolissimo cappello introduttivo per spiegare anche a chi non lo sapesse cos'è il Leoncavallo. Cioè, il Leoncavallo è uno spazio pubblico autogestito, è da anni nel tentativo di trovare una soluzione allo sgombero che è sempre la spada di Damocle sopra la nostra testa e dopo 18 istanze di sfratto rinviate per mancanza della forza pubblica, naturalmente anche per la partecipazione ai nostri presidi, eccetera, eccetera, ci troviamo ancora in una situazione che è una situazione non risolta. Ci troviamo in una situazione non risolta che è una situazione naturalmente che c'è nella Milano, cioè della tolleranza, dell'inclusione, così come diceva benissimo la professoressa di Torino, cioè in maniera assolutamente strumentale viene passata dal nostro sindaco come strumento di comunicazione di massa, eccetera, eccetera, ci troviamo a non avere ancora una soluzione, anzi, ogni passo avanti che noi facciamo ne riceviamo due schiaffi in faccia che ci rimandano indietro da parte del Comune di Milano. Questa è una brevissima introduzione per far capire un attimino anche il contesto da cui veniamo e naturalmente in cui ospitiamo questo momento che, ripeto, è uno spazio pubblico di discussione che, tra l'altro, c'è, cioè, nel senso ci piace descrivere in questo modo perché vede la partecipazione di soggetti talmente diversi, con culture anche profondamente diverse, che si confrontano all'interno di quella che è la trasformazione delle metropoli, ma cioè di quello che è il concetto allargatissimo della metropoli, cioè qualcosa che è un divenire globale su quello che è, pensiamo, cioè quello che è il nostro territorio. Uno spunto che trovo assolutamente interessante, che veniva detto, è: non siamo attrezzati alle grandi trasformazioni. Io sono fortemente convinto che questo sia la realtà anche in questo momento di Milano. Tra l'altro, alla luce anche di un evento che ci cala dall'alto, ci cala sulla testa, che è Expo, che è un evento particolarmente complesso anche da leggere nelle sue dinamiche, perché Expo è tantissime cose. Expo è un acceleratore di politiche, ma è un acceleratore di politica che, come la TAV, cioè copre non solo Milano, ma la trasformazione della Lombardia tutta e di ricaduta poi anche a territori che sono territori limitrofi. E quindi, cioè, è un evento assolutamente difficile, tentacolare, su cui cercare in qualche modo una lettura, che però, secondo me, bisogna cominciare ad agire. Bisogna cominciare ad agire su due binari. Il primo binario è quello, cioè, della riappropriazione, cioè del diritto di resistenza. Questo spazio lo fa quotidianamente, cioè mantenendo un presidio sulla città, dialogando con il quartiere in cui è inserito, cioè dialogando all'interno di quello che è un panorama assolutamente complesso. E dall'altra parte c'è il tentativo di essere propositivi nella trasformazione, cioè provare a essere noi a ingaggiare l'altra parte. Milano utilizza uno slogan, che è uno slogan assolutamente per vincere l'Expo, assolutamente, cioè, menzionero, che è "energia per la vita, nutriamo il pianeta", una cosa del genere. Ecco, noi non vediamo in questo slogan qua se non un bel tentativo comunicativo. Perché non ingaggiare fortemente noi, invece che, penso, questo evento sia l'Expo, come diceva prima, cioè la trasformazione, il nutrire il pianeta, un prototipo di rappresentazione di questo che noi portiamo avanti oramai da anni, da ancora a Veronelli quando era in vita, poi successivamente dopo con la trasformazione di un percorso che è un percorso plurale, che è un percorso partecipato, perché naturalmente, cioè, non è il Leoncavallo è lo spazio pubblico autogestito con le intelligenze collettive che si meticciano per far sì che questo percorso man mano vada avanti e assuma maggior forza all'interno di quella che è la cosa. Noi dovremmo essere in grado, da una parte, a riattivare, cioè, il sacrosanto diritto delle persone di opporsi ai mostri che caleranno sulla città, perché caderanno, cioè, erano tre grattacieli, adesso non si sa com'era, cioè, era il gobbo, lo storto, cioè, e l'altro non mi ricordo neanche come era stato soprannominato, però c'è, cioè, dei mostri di costruzione all'interno di questa che è la nostra città, con calate di cemento armato che dovevano diventare le opere simbolo di Milano. Ecco, perché non essere noi a proporre per il 2015, all'interno di un percorso di costituzione, un forum mondiale che caratterizza, cioè, la trasformazione in cui siamo noi che riprendiamo parola e diciamo fortemente cosa vuol dire nutrire il pianeta e trasformare le città. E essere noi la proposta e l'alternativa, il futuro, la costituzione di un ragionamento su questo. Noi, cioè, per non lasciare vuoto il ragionamento all'interno di una roba del genere, perché sennò il rischio è veramente di essere assolutamente ideologici nella rappresentazione, cioè penso che un piccolo spaccato per quelli che hanno visto e che vivranno anche nelle giornate lo stiamo cercando di dare, e penso che c'è la Terra Trema sia una rappresentazione concreta, reale, di trasformazione di quello che noi vogliamo. E poi naturalmente c'è un ragionamento che si apre sulla città di Milano, un ragionamento che prende dentro le intelligenze della città di Milano, perché la città di Milano è ricca di intelligenza, cioè non lo so, il ragionamento che potrebbe essere collegato una roba del genere, di fortissima opposizione, una roba a la costruzione dei grandi grattacieli, alle speculazioni, alle calate del cemento armato, delle colate di cemento armato che verranno buttate e gettate sul nostro territorio, è il ragionamento sulle vie d'acqua. Milano come la città di acqua. Milano, cioè, si era fatto tempi ancora non sospetti un incontro all'interno di quella che era un momento di discussione pubblica che noi riproponiamo all'interno di quello che è il cammino antiproibizionista del Leoncavallo, che era Milano come Amsterdam, la trasformazione delle città dell'acqua. Io penso che c'è una trasformazione del genere, la focalizzazione su quelli che sono obiettivi pratiche, la logica e la fortissima resistenza che si può mettere invece in campo su alcuni obiettivi, sia a livello, cioè, di mantenere tra virgolette le posizioni e mantenere il fortino, come, cioè, purtroppo ci tocca fare per quanto riguarda il Leoncavallo, ma a opporsi con i propri corpi, come i compagni della Val di Susa hanno fatto all'interno della loro valle, su alcune cose sia necessario. Dall'altra parte va messa una proposta che sia una proposta attiva, una proposta di costruzione veramente di un immaginario e di una città che è la città che vogliamo, la città che verrà e che dobbiamo cercare di mettere in campo ora, a partire da ora, fino al 2015, e che poi abbia, cioè, la trasposizione successiva su quello che metteremo in campo per trasformare veramente Milano. Questa è un'opera naturalmente difficilissima, io penso che, c'è, nel senso, si possa cominciare a ragionarci veramente in maniera organica, in maniera assolutamente plurale, perché, come si diceva prima, cioè, la portata e la forza sta proprio in intelligenze che hanno punti di vista differenti sulla logica dell'Expo. Penso che, cioè, all'interno della Val di Susa si confrontassero persone che, come diceva prima, cioè, magari avevano posizioni differenti a livello, cioè, di quello che era anche la vita totale, cioè la visione di quello che era la cosa, ma che all'interno di quello che era il meccanismo di sinergia che si poteva mettere in campo riusciva in qualche modo veramente a essere una forza che era una forza detonante all'interno di quella che era la trasformazione che voleva essere imposta. Io proverei a imporre noi, cioè provare a noi a imporre un ragionamento che sia un ragionamento che, a partire da questi momenti che possono essere la Terra Trema, ma ce ne sono mille altri sui territori, e penso che poi c'è gli altri interlocutori ne porteranno di ragionamenti su questa cosa qua, possa essere veramente il tentativo, cioè, di trovare una logica diversa e opporsi e attrezzarsi veramente alle grandi trasformazioni. Altrimenti il rischio è di trovarsi schiacciati ognuno all'interno del suo piccolo ambito di ragionamento, senza avere poi la forza di opporsi veramente su quella che è la trasformazione che ci cadrà sulla testa. Ultima cosa, è evidente poi, cioè, nel senso che noi dovremmo anche affrontare la difficoltà delle peculiarità territoriali, cioè, nel senso, Milano è un crogiuolo di differenze enormi, e quindi, cioè, su quello è evidente che c'è, a differenza della Val di Susa, che nonostante la portata e l'interesse fortissimo che ha, cioè, nel senso, c'è anche una dislocazione territoriale e una difficoltà comunicativa che probabilmente su altri territori non ci sono. Ecco, noi dobbiamo cominciare a superare queste cose per attrezzarci per il nuovo e la trasformazione che dovremmo riuscire noi a trasformare, scusate il gioco di parole, all'interno di quello che sarà lo scenario futuro. Sì, vieni qua, che sì, no, facciamo proprio